ma arrivo là a fare il colloquio, ma avevano detto all'ufficio di collocamento a Potenza, ma raccomando, quando vai a fare il colloquio per entrare alla Fiat devi parlare veloce veloce, pure che non tieni niente da di parlare veloce, parla veloce, vogliono vedere come muovi la lingua, più parli veloce più hai attitudine, sì, perché puoi entrare da un momento all'altro. E mi raccomando, se ti chiedono al colloquio per entrare alla Fiat se sei diplomato, di che hai la scuola elementare e basta, perché se dici che tieni la scuola media non fai bene per la fabbrica. E se ti fanno montare qualcosa con le mani, oh, mi raccomando, andò, devi essere una scheggia velocissima. Ero proprio la prima mattina che ero alla Fiat, innanzi a me stava un signore a retta una scrivania, vestito bene, con la cravatta rosa, palini verdi, e tutto bello ordinato con gli occhialini, e mi aveva detto all'ufficio di collocamento che aveva parlato veloce veloce, che più parlavo veloce più avevo possibilità, ma sentire proprio un mondo alla seggia, per ancora più veloce. Come ti chiama Antonio? Sei diploma? No! Scuola elementare e basta! Bravo! Bene, bravo la lingua! C'hai soldi, sono disoccupata da tanti italiani al sud dell'Italia, dottore. Ma se si tratta di essere veloce con la lingua, sono pronto a sfidarci un guai in a due. Ho fatto il cretino per tutta la selezione. Riflessi ottimi, ma completamente imbecille. Proprio quello che cercano per la fabbrica. Se ragioni troppo, non vai bene per la fabbrica. Senta, lei sarebbe felice di entrare in Fiat, dottore, io sarei felicissimo, è stato il sogno della mia vita. Prima l'ha sognato papà di entrare in Fiat e ci è riuscito. E suo padre come si è trovato? Sì, papà, nel 1969 ci siamo trasferiti, piccolo, ci siamo trasferiti a Torino, da Cerenza, il mio paese vicino a Potenza, dove sto ora. E papà, il suo padre come si è trovato in Fiat a Torino? Mio padre è felicissimo di aver regalato tutta la sua vita alla Fiat, dottore. E pensate che è così felice che come quando nel 1991, dottore, mio padre è andato in pensione e tiene due Fiat di 600 in coppa al comodino. E il treno che ci portava da Cerenza, durante tutto il cammino sul treno accarezzava quelle due 600 e piangeva, ha pianto fin sotto la cattedrale di Cerenza dove si sposò. E lei sarebbe felice di entrare in Fiat 8, io sarei felicissimo, scherziamo, non sarei costretto a fare l'emigrante innanzi al resto d'Italia, il lavoro l'avrei direttamente qua nel sud dell'Italia, sarei felicissimo, dottore. E sua mamma sarebbe felice, dottore, se voi mi facete trasa alla Fiat, mia mamma per la felicità mi fa la torta con le candeline. È molto bravo lei. Complimenti, molto bene, molto bravo. Poi suo Cristiano è venuto da Torino, si abbassò a retta la scrivania e dall'ultimo cassetto della scrivania prese qualche cosa. Vedete, questo è Bambi. Lo conosce? No, dottore. Mai visto. Bene, questo è il puzzle di Bambi. Tutti questi mattoncini messi assieme formano la puzzle di Bambi. Ora io lo scompongo e lei me lo dovrà ricomporre, perché le macchine Fiat moderne sono tutte assemblate. E allora vogliamo vedere la sua capacità di assemblarlo. Abbiamo stabilito un tempo massimo di 2 minuti sopra il quale non si può andare. Ora attacco l'orologio, dottor Noende, facciamo guardare a buona Bambi. Bambi, si chiama Bambi. Bambi, ecco, lo guardi qualche altro secondo. È pronto? Ora lo butto sulla scrivania e lei lo dovrà ricomporre. Pronto? 3, 2, 1, via! Scusa, sbagliato, su che veloce. Oh, tutto sto testo. Non potreste mai fare gli operai in Fiat. Manca la Ford. Sicuro siete impiegati dello Stato. Indovinate quella mattina quanti secondi ci mise a fare il puzzle di Bambi? In genere ci mettevo 36 secondi. Con tutta l'adrenalina che avevo nel corpo, non vado a recuperare 3 secondi? 33 secondi. Nessun operaio d'Italia ci aveva messo così poco tempo. Sto Cristiano è venuto da Torino, si alzò dalla scrivania con la meraviglia. Si tolse gli occhiali e mi girava attorno tu. Mi guardava con un'ammirazione. Mi sentivo ammirato come se fossi Miss Italia. Mi guardava con la stessa ammirazione con cui il cardinale Ruini guardava Berlusconi. Bravo! Così li vogliamo i nuovi operai del sud dell'Italia, li vogliamo scattanti, veloci, miracolosi! Poi si risedette a retta la scrivania e si abbassò, sudai freddo, pensai a Puzzle. Cironimo Stinto, Lape Maia, Peter Pan, Bianca di Mistetti, Nani, Puzzle, che non conoscevo affatto. ma fece un sospiro di sollievo quando vidi che da un cassetto aveva tirato fuori il contratto di lavoro. Oh, il contratto prevedeva 1800 ore di formazione in fabbrica e poi il salario fisso, ero là a realizzare il mio sogno. Mi sentivo come se fossi Bambi in gobba alla montagna a rosicare erba fresca, firmai quel contratto, me ne scappai fuori dalla fabbrica e proprio fuori dalla fabbrica mi misi a prendere il pullman. Ero stato preso, ero un operaio salariato. Oh, innanzi alla fabbrica c'è il pullman che ci porta poi nei nostri paesi, no? E proprio innanzi alla fabbrica c'è questo pullman e c'è la pensilina e c'è un bar. Entrai dentro al bar felice per chiamare mia mamma e mio padre, feci il numero di telefono di Acerenza. Pronto chi parla? Bueno, San Antonio. Pronto chi parla? Nonno, sono Antonio. Pronto chi parla? No, sono Antonio. Antonio, che è successo? Antonio, mio nonno, sordo come una campana quando non voleva sentire. Bueno, sono operaio alla Fiat Sata di Melfi. Che è successo? Mi hanno preso alla fabbrica, sono operaio alla Fiat di Melfi. Tutti quelli che erano seduti nel bar a giocare a 3-7 si alzarono all'impiedi. Mi sentii guardato per la prima volta nella mia vita con dignità. Poi io, no, diamo a me papà che mo mi piglio il pullman qua a Cerenza fra 2 ore sto paese, hai capito? Sì, non ci capito, ma voglio vederne a casa, hai capito? No, sì, nonno, ti sto dicendo che me ne sto venendo a casa. Mi piglio il pullman innanzi alla fabbrica a Melfi, fra 2 ore sto a Cerenza, dillo a mamma e papà, hai capito, nonno? Sì, non ci capito, ma vieni a casa, ma no, ti sto dicendo che me ne sto venendo a casa, là. Chi sto pigliando il pullman innanzi alla fabbrica, fra 2 ore sto a paese. Hai capito, nonno? Sì, non ci capito, ma vieni a casa, ma no, vaffanculo! Mio nonno sta sempre seduto su quella sedia. Stiamo al secondo piano ad Acerenza. Sta seduto su quella sedia e pensate che guarda sempre al balcone le persone che passano da sotto. E mio nonno, quando non capisce chi è che passa sotto, è una domanda a lui, chi è che sta passando da qua sotto? Ci voglio assai bene a mio nonno. Pensate che mio nonno tiene 92 anni, ha fatto la guerra della resistenza. Sì, ha fatto la resistenza. Sì, ha da fissa storia la resistenza, non l'hanno fatta i meridionali. Mio nonno ha fatto la resistenza. E mio nonno era militare all'epoca, e a un certo momento arrivarono i fascisti e dovette scegliere o i fascisti o i partigiani, e scelse i partigiani e se ne andò in Emilia Romagna nei boschi. E pensate che tagliò un pezzo di ramo, lo ramo di una quercia, e ci ha fatto il bastone della resistenza col suo coltellino, il bastone della resistenza con la capa a testa di gallo, guai a chi ce la tocca. Pensate che con quel bastone mio nonno ci ha fatto tutta la guerra di liberazione alla resistenza italiana. Pensate che mio nonno è così legato alla resistenza che tiene ancora nell'armadio il vestito della resistenza originale, il cappottone nero, il pantalone nero, la camicia e anche il giletto, a chi ce lo tocca, la puzza, una fotalina ogni 25 aprile. E pensate che ogni 25 aprile mio nonno apre l'armadio, si mette il vestito della resistenza e in onore del 25 aprile 1945 costringe tutta la famiglia a ballare e a marciare. Lui si piglia la chitarrella della resistenza e col bastone della resistenza vannanza e lui appressa esse e lui marcia felice in ricordo del 25 aprile 1945 con il ventennio fascista e la Repubblica di Salò. Arrivo e mio nonno non sta al balcone. Dico, ma come, mio nonno non sta al balcone? Tiene 92 anni, sta sempre aspettando un po' più la sedia perché non c'è mio nonno. E allora salì sopra, piano piano, salì a casa, acceso, preoccupato, accesi le luci, e non funzionava, le luci, non c'era luce, ma non c'è luce, ma all'esterno c'è la luce. E allora, quando non c'è luce, teniamo un armadietto proprio nel corridoio, pieno di candele, arrivandoci da quell'armadietto, tirai fuori le candele, pigliai una candela, accesi quella candela e proprio mentre accendevo la candela ti vedo che all'altro lato del corridoio, da dietro alla porta del bagno, si vedevano tante candele che arrivavano e innanzi andava mio nonno, giuro, vestito da partigiano. E non era il 25 aprile. Adesso c'era mia mamma e poi c'era Angela, la mia futura moglie, quanto era bella che pareva una principessa, e venivano avanti e tenevano una torta in mano, giuro, una torta. A casa mia non c'era mai festeggiato un onomastico, un compleanno, niente. Dico, ma che, perché hanno fatto la torta? Ma vicino alla processione, e tu dici, a mia mamma con questa torta in mano, ho una torta piena di panna bianca, e sulla panna bianca avevano fatto scrivere con la cioccolata nera, evviva la Fiat. Pensate, io ero appena diventato operaio metalmeccanico e mio nonno con la chitarrella della Resistenza mi cantava la canzone dei braccianti agricoli. Mi son venuto un bracciale nulloneio e so contente su contente assai, non l'abbandonerà mai mai la zappa, non sappiete lo pagliare, non mi zappa l'urticetta, non mi zappa lo semenate, e ogni anno in un porcetta non me la giacca mai mangiare, non mi zappa l'urticetta, non mi zappa lo semenate, e ogni anno in un porcetta non me la giacca mai mangiare. Tengo una vigna nanda la umana, ma pare un canistra c'è una ruba. Tengo una casa andretta lo pagliaro, cavanna tra sapere lo muovo. Tutta cena rapatana, sava zicchia fino a nuovo, vuole asche l'ora suole e mi senta regria. Tutta cena rapatana, sava zicchia fino a nuovo, vuole asche l'ora suole e mi senta regria. Vuole asche l'ora suole e mi senta regria. Sapevo di entrare in una fabbrica diversa, in una fabbrica di stile giapponese, ma avevano detto che questa fabbrica di stile giapponese era tutta una fabbrica diversa, c'era scritto sul contratto, no? Che questa fabbrica era tutta trasparente, era bella, e addirittura c'era scritto sul contratto che questa fabbrica era proprio la fabbrica della felicità, c'era scritto, che nasceva a Melfi una gioia di entrare in quella fabbrica, e che quella fabbrica era proprio di stile giapponese, che la Fiat aveva capito che i giapponesi della Toyota riuscivano a produrre le macchine abbattendo i costi del 30%, e allora la volevano portare in Basilicata per abbattere i costi. Ero così felice di questa fabbrica di stile giapponese a Melfi. Pensai alla gioia di Angela, la sposa mia, la mia futura moglie, e a pensare ai giapponesi a Melfi. E pensate, era così fatica per il Giappone, Angela, che si vestiva proprio giapponese. A Melfi, a Cerenza, dovunque andava. E era così partita arte marziale giapponese, che da 10 anni frequentava una palestra di arte marziale giapponese a Potenza. Dico, ma questa ragazza si è giapponese a Melfi, sai che felicità! Cioè, ero troppo felice. Oh, ma avevo realizzato il sogno della mia vita, cazzo, basta, un meridionale che vada a Nazareth tutti i cazzi tre in merda. Stai là fermo per l'amore. Ero felice, pensate che quella sera era talmente tanta la gioia che mangiamo la torta, mio nonno sembra che c'è pure la camicia della Resistenza con un po' di cioccolato, ma pensa la vette immediatamente. E poi pensate che mia mamma disse a un certo momento, disse a me Angela, disse, beh, Adomo, la fatica, la tieni la fatica, ti puoi pure sposare. E io dissi, aspetta, ma che prima di sposarmi Angela devo riuscire a fare tre uragini, che a lei un puzzolo di bambi, ancora più veloce di me. ero felice. Sapevo che questa fabbrica di stile giapponese, questi agnelli l'avevano presa direttamente dal Giappone. Sapevo che era scritto sul contratto che questa fabbrica dipendeva direttamente dal mercato, e che questa era la vera novità di questa fabbrica che ci venivano ad aprire in Basilicata, che il mercato telefonava tutte le mattine. Gesù Cristo, speriamo di andare a fare la telefonata del mercato. E il mercato ti chiama una mattina e ti dice, oh, stamattina servono 5.000 macchine, e tu te lo verrai a fare 5.000 macchine. Poi un'altra mattina il mercato ti chiama e stamattina no, servono solo 300 macchine. E tu fai solo le 300 macchine quando ti chiama il mercato e dici che servono solo 300 macchine. Perché se fai 5.000 macchine, le altre 4.700 che non servono al mercato stanno nel deposito, è roba morta. Allora non le fai, ne fai solo 300 che servono al mercato, che tanto educatamente ti ha chiamato per telefono. E quando servono solo 300 macchine, è inutile che convochi 5.300 operai in fabbrica. Ne convochi 300 e gli altri 5.000 li metti in cassa integrazione e paga direttamente lo Stato italiano come ha sempre. Ma che cazzo idea geniale te ne erano gli agnelli da realizzare in Basilicata? Pensate che ero così felice per dire questa fabbrica, che dice il contratto, dice che questa fabbrica era tutta completamente trasparente. Ma dove si è vista una fabbrica trasparente? Una fabbrica tutta di vetro, una fabbrica lunga, con la scocca della macchina che camminava, coppa una gru, il tuo scheletro della macchina che camminava grazie a una gru, su un binario, e tutti gli operai felici nel vetro, sorridenti, gioiosi di far parte di quel processo produttivo. Sì, uno che mette la ruota, un altro che mette il cruscotto, l'altro che mette lo sterzo, un altro che piazza un faro, tutti felici. E quando non ce la farai più a mettere un airbag che pesa 5 kg sul tuo cazzo, nessuna paura, troverai una mano amica. Ero così felice di entrare in una fabbrica che pareva la fabbrica dell'Azione Cattolica, che quella notte non dormiva la gioia. Ero così riconoscente a chi mi aveva dato il lavoro e che non era stato né un senatore né un deputato. Ero così riconoscente verso chi mi aveva restituito la gioia del lavoro, che quella notte non chiusi occhi, non riuscì a dormire. Dormì soltanto grazie a lui, poggiando la testa su pupuzze di panni. Dormii su puzzole di bambi e sognai quella prima notte. Sognai di essere un operaio biondo, magro magro, con gli occhi azzurri. Essere a me tutti operai biondi, con gli occhi azzurri, alti e magri, tutti sorridenti, i denti perfetti che non c'era una cazzo di carne adesso. E tutti che sorridevano e tutti che avvitavano le leve. Abitavano i bulloni, quante leve nel sogno, tutti a sorridere, a girare leve. Gira, gira quella leve, spingi a fondo quel bottone, tu non sai quello che fai, tu non sai quello che fai. Ordina un padrone, torni a casa con la moto, hai la testa che rimbomba, riesci a odiare anche i tuoi figli, riesci a odiare anche i tuoi figli che ti operai, che poi gli stipendi, un salario è bassissimo, però gli affitti sono aumentati a Cerenza come se stai ai parioli da quando c'era Fiat. Ci sposammo nel 96 e a dicembre del 1986 nacque la mia prima figlia, Caterina. Caterina come a mia mamma. E poi a dicembre 96 nacque Caterina, cominciò il lavoro e ora vi devo dire la verità, sono passati 10 anni da quella notte della torta. 10 anni. E vi posso dire dopo 10 anni che siamo nel 2004, dopo 10 anni vi posso dire che ho capito finalmente, che mi sono trovato per 10 anni a bollire nell'inferno più bollente e cocente rosso della fabbrica Fiat. Siamo nel 2004, che Caterina, mia figlia, tiene 8 anni, è nata nel 97, e pensate che sette mesi e mezzo fa è nata la mia seconda figlia, Giacomina, tiene 7 mesi e mezzo. E con le due bambine sapete che mi piace fare questo, mi piace mettermi nel letto, mi metto nel letto matrimoniale e piglio il lenzuolo matrimoniale e ci mettiamo sotto il lenzuolo a fare la capanna nel bosco. Mia figlia Caterina, che tiene 8 anni, dice sempre: papà, facciamo la capanna nel bosco, alzo il piede e facciamo la capanna nel bosco. E le risate che ci facciamo con Caterina e Giacomina, che è piccola 7 mesi e mezzo, che andiamo a cercare, dice: no, che Caterina è Giacomina. E siamo felici quando facciamo la capanna nel bosco. Certo è bello quando a fare la capanna nel bosco c'è pure mia moglie Anna, ma quando c'è lei non c'è quasi mai. E lei va alla fabbrica e io sto a casa a fare la capanna nel bosco, poi lei rientra dalla fabbrica e io vado in fabbrica, non ci vediamo quasi mai, ci vogliamo sempre bene con Angela, però la vita è triste, la verità è che il salario è troppo basso, ce la facciamo manca a pagare l'affitto e a crescere le due bambine. E poi i turni di lavoro sono massacrati. Ma pensate che in un mese lavoriamo così. In un mese il primo turno di lavoro lo facciamo la mattina, poi il secondo turno di lavoro lo facciamo il pomeriggio e il terzo e quarto turno di lavoro in un mese lo facciamo poi di notte. 12 notti a lavorare. Che questa è l'unica fabbrica in Europa che tiene questi turni di lavoro. Cioè, se lavori sempre di notte, l'organismo si abitua e stai a lavorare di notte. Ma se fai una settimana mattina, una settimana pomeriggio, 2 settimane di notte, per non venire i macchinari fermi, la Fiat fa così c'è sempre 24 ore su 24 i macchinari camminano. Si chiama doppia battuta, 12 giornate di lavoro notturno anche per le operaie femmine, incinte, che molte operaie hanno rischiato di perdere i bambini. E allora questa doppia battuta, da noi l'accordo in Basilicata fu diverso. La Fiat veniva ad aprire una fabbrica di tipo giapponese grazie a 6.000 miliardi di vecchie lire date a fondo perduto dal governo italiano alla Fiat, e gli operai lucani, pugliesi, calabresi e campani accettavano di lavorare con la doppia battuta, 12 turni di lavoro notturno, e accettavano di guadagnare il 10% in meno di tutti gli altri operai d'Italia. E allora con questa doppia battuta uno va alla fabbrica e un altro torna, non ci vediamo mai, è triste, uno va alla fabbrica e un altro torna, e poi mia moglie arriva e io me ne vado, è una vita terribile. E mia moglie arriva con una faccia stanca, apre la porta e mantiene una faccia stanca che è incazzata, che pare furino. È il mediano di spinta della Juventus. Piaceva a papà quando stavamo a Torino. Arriva, entra e io non riesco, lo so che non so cucinare, non so stirare, non so fare niente, lo so che non so manco cambiare il pannolino alla bambina piccola Giacomina che tiene 7 mesi e mezzo. Che spesso non riesco a cambiare la lassa cagata. Allora mia moglie arriva, va vicino alla bambina, guarda dentro al pannolino, vede il colletto tutto rosso dalla creatura, si gira con una faccia che pare Gattuso. Ma non mi dà del cornuto perché ci vogliamo bene, ci amiamo. Ma mi dice, ma insomma, manca a cacciare la creatura. Oh, sono partito stamattina, sono arrivata alla fabbrica dopo 2 ore di pullman. Sto agli airbag, ho fatto 7 ore e mezzo di... ho messo gli airbag 5 kg sotto un sedile che le tette mi stanno scendendo a terra, a furia di piegarmi a mettere airbag, 5 kg di airbag sotto il sedile, 350 macchine, 350 airbag sotto il sedile. Arrivo a casa dopo altre 2 ore di viaggio in pullman, che in totale facciamo 13-14 ore di lavoro, manca la creatura cangiata, andò. Andò, ma che uomo sei, andò, tu sei un vigliacco, andò, manca a cangiare pannolino a creatura, grida mia moglie minacciando un passo di arma nazionale giapponese. Tranquilla che la cangio subito da creare. Allora io mi metto a cambiare la bambina, la metto sul pavimento la bambina e cambio lei, mia moglie entra nella camera da letto e chiudo la porta, boom, e io cambio il pannolino e mia moglie che si leva la tuta. E lei grida, ma che veramente mossi agnelli non vanno a fare schiavi qua? Oh, falla finire che sto cambiando la bambina, Angela. Lei sta cangiando, sei solo tu che sei un coglione che non ti accorgi di come ti ci trattano. Oh, falla finire che non ci voglio a cangiare la creatura, capito? Basta, Angela, non fa la comunista, hai capito? Cioè, perché se no che mi fai? Ha aperto la porta Angela e mi sta in faccia, avanza, faccio la comunista, che mi fai? Trasa indo e falla finire. Oh, boom, fece la porta. L'incazzatura di mia moglie quella mattina sembrava un'incazzatura totalmente diversa da tutte le altre incazzature. Sembrava veramente un vulcano che è stato spento per 3-4 mila anni e poi di colpo sta per sbuttare lava da tutte le parti, che non ce la fa più. Io ora ero qua a cambiare la bambina, lei era là a cambiarsi la tuta. Ma perché devo dire la tuta? La nostra non è la tuta, quella di papà che ha lavorato a Torino di Racchiadello. Quella era una tuta da operaio meccanico, tipo quella di Charlie Chaplin, che era una tuta che era un blocco solo con le bretelle, col punto qua per il cuoio, per asciugarti le mani fatte di olio. Noi non abbiamo la tuta da operaio, noi abbiamo una divisa, una divisa da operaio post-fordista. C'è il pantalone, poi c'è la maglia sopra e c'è pure la giubba blu. E la nostra non è più una tuta da operaio, anche se la fatica che facciamo là dentro è 10.000 volte peggio della fatica che faceva mio papà a Torino Miracchio. Ho cambiato la bambina, piano piano prendo la bambina, la porto nella camera da letto, la metto su una culla nella camera da letto. Mia moglie mi vede, sta per cominciare a sbottare tutta la rabbia, sta dormendo a me. Allora mia moglie esce, io metto la bambina sul letto, chiudo la porta e mia moglie comincia a gridare, ma insomma, ma veramente non vanno a uccidersi, Agnelli? E che? Basta, mo! E santi Dio, basta! Basta, ma veramente basta! E se non è andata a volte dentro, sentite, io vi devo dire la verità. A me la vita in fabbrica è andata male fin dal 1994. Sapete dove mi misero a lavorare nel 1994? Vi devo dire la cosa com'è, mo che mia moglie è entrata là, che si cambia la tuta. Allora, mi misero a lavorare alla pantofola. La pantofola è un pezzo di ferro, legno e gomma che si mette sul cruscotto e serve per attutire i rumori del motore dentro l'abitacolo. Sta pantofola pesava all'epoca 30 kg e la pigliavamo due operai, una anolata e una nata. Entravamo dentro la scocca della macchina in movimento e allora piantavamo i pirulini, i chiodi, no? Da mettere per incastrarla nel cruscotto, poi la incastravamo nel cruscotto con una bella pedata forte, se no quella forte non si incastra. L'altro correva a prendere l'altra pantofola e l'altro saliva sull'altra scocca, però se lo facevamo in due ci volevano molti secondi, 80 secondi ci volevano, e questo lavoro lo devi fare in 45 secondi e se perdi 30 secondi dai fastidio agli operai che vengono dopo, no? Gli operai che vengono magari che hanno montato subito poi il cruscotto e lo sterzo, e allora toccava metterci 45 secondi. Allora il mio amico operaio mi pigliava la pantofola 30 kg, io pigliavo la pantofola, lui mi rimetteva giusto i pirulini in coppi buchi e io mettevo sti altri due, poi mi piegavo, lui andava a prendere l'altro. corto e davo un calcio così forte, se no non mi incastravo, ma un calcio così forte che davi il calcio e te ne cavevi col culo sui sedili anteriori della macchina. Un cazzo fatto che i sedili non erano stati ancora montati. E allora te ne cadevi sull'acciaio. E allora ho in un turno di lavoro 350 macchine, 350 pantofole, 350 culacchiate, ti fa male il culo tutto il giorno se fai il turno di lavoro di notte. Se poi fai il turno di lavoro di giorno ti fa male la notte. No, certo è molto meglio se ti fa male la notte perché stai nel letto e dormi. Ma quando ti fa male di giorno è terribile, dopo 350 culacchiate cammini la mattina tutto storto da fa paura, si sente tutto il culacchiato sulla ciata. Che pensate che in questi paesi, che a me è così strano, che ti riconoscono verso Lavello, Foggia, Rio Negro, ti riconoscono da come cammini che stai alla pantofola. Che stai alla pantofola? A fanculo! Di la verità, un anno, sono stato 5 anni alla pantofola, un anno ci ho messo un cuscino. Mia mamma mi ha fatto un cuscino, lo sono fatto dalla tuta XXXXL stelle e mi hanno messo un cuscino per attutire le culacchiate. E allora era più leggero il lavoro, però mi sfottevano alla UTE, la squadra, no? Si chiama UTE. Mi dicevano, ma che è alla UTE della pantofola, è arrivata a lavorare Sandra Mini. E allora mi sono dovuto togliere il cuscino. Ti devo dire la verità stasera, non so se ve la posso dire, ma la già lì, io soffro di emorroidi, ho 350 culacchiate, alla 200ª culacchiata ti si rompeva l'emorroide, sangue, un dolore terribile, non puoi dire manco mezza parola. Se protesti scatta l'articolo 25A del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, che significa licenziamento con preavviso. Scatta per ogni cazzata, vai in bagno per due volte nello stesso turno e scatta l'articolo 25A. E allora non vuoi manca mezza parola, devi stare là a lavorare e basta. E pensate che ogni giorno ho preso 350 culacchiate. Ogni 10 giorni 3500 culacchiate. 30 giorni 50, 10, 3.500, più o meno 10.000 culacchiate in un mese, in un anno 120.000 culacchiate, in 5 anni ho preso tipo 5 milioni di culacchiate, ma non ho mai detto mezza parola. Certe volte volevo protestare, ma mi ricordavo sempre quello che mi diceva mio papà, prendendo il Fiat 600, mio padre diceva sempre, vecchio operaio Fiat, diceva no, contro la Fiat non si sciopera, contro la Fiat si resiste. Ti ricordi che cosa è successo nel 1969? Noi operai scioperammo nel 69 e volevamo dignità nel lavoro, arrivò la polizia ammazzata contro la testa a casa, senza salario e senza niente, e non contenti, il 15 settembre del 1980 la Fiat licenziò 14.500 operai dall'oggi al domani e noi operai innanzi alla fabbrica a scioperare a Torino. Come finì quello sciopero? Arrivò la polizia, botte con la cava a casa senza salario e senza niente. Senta a me, andò, contro la Fiat non si sciopera, contro la Fiat si resiste. E allora io ho resistito, sono pigliato 5 milioni di culacchiate in 5 anni, una circa mezza parola, niente, ha già buttata in vuota e citto. Padrone mio, ti voglio arricchire, padrone mio, ti mi arriva una lettera, mi cambiano di ute, mi cambiano di squadra, dico Gesù mio, dove mi mettono? E mi mettono ai padiglioni, i padiglioni delle macchine di cassa, fatti dove ci ingannano, basta con la chiave. E allora i padiglioni delle macchine sono il tettuccio della Fiat Punto, il tettuccio si pigliava con un computer e mi mettono proprio un computer sopra le spalle. E pensate che questo computer, io il computer dei bambini, no? Come proprio come i tasti, no, i computer dei miei bambini, che io non tengo computer, non tengo mai i soldi per pagare l'affitto di casa, che fra qualche giorno viene l'avvocato a darmi lo sfratto definitivo, se tengo i soldi per acquistare un computer. E comunque mi misero sulle spalle questo cazzo di computer, e con questo computer manovrava una tenaglia meccanica gigantesca che pigliava il tettuccio della Fiat Punto, lo piazzava sulla scocca in movimento, lo saldava direttamente, e poi io pigliavo l'altro padiglione e mettevo l'altro sempre col computer, però ci dovevo mettere 80 secondi precisi e non ce la facevo col computer. Non riuscivo ad acchiapparle, a fare la saldatura, e davo fastidio agli operai che venivano dopo, che dovevano montare la pantofola senza il tettuccio. Allora il capoute gridava da dietro: Aldo, forza cazzo, se non ce la fai con il suo computer, pigliala con le mani. No, con le mani, certo, pigliala con le mani, coglione di merda, muoviti, non vedi la scazza e la scocca, pigliala con le mani, coglione, piglialo con le mani e mettilo con le mani. E allora lo pigliavo con le mani, 350 padiglioni durante un lavoro, un turno di lavoro, e poi la saldatura che ti schizzava tutto sulle mani, 350 padiglioni in un giorno, però è sempre meglio delle culacciate. La creatura si è messa a dormire, entro nella camera da letto perché mia moglie ancora si sta cambiando, mia moglie esce come una furia e comincia a gridare un'altra volta, non gridare la camera, che sta dormendo la bambina, non gridare, e lei comincia a gridare forte, andò insomma, ma sti cazzo di agnelli, che cosa ci vogliono fare? Ora ci vogliono veramente uccidere, io non ce la faccio più, andò, e in un anno hai preso ogni giorno 350 culacciate, in 5 anni hai pigliato milioni di culacciate, non hai detto neanche mezza parola. Angela, ma ti ricordi che dice papà, che dice che come finivano gli scioperi, che devo fare? Devo scioperare, va bene, domani mattina mi danno l'articolo 25, addio latte, addio pannolini per i bambini. Anto, non sarai più solo, dobbiamo essere tanti operai. Da oggi, 19 aprile 2004, la FIOM CGL ha deciso di fare un tavolo per parlare con la Fiat, dobbiamo chiedere la nostra dignità del lavoro. Ma no, non gliela mai chiedere niente. Angela, non gridare, che sta dormendo la creatura. Ricorda che tu sei prima di tutto sei una mamma. Hai capito che sei una mamma? Io sono una mamma, ma prendo le bambine e me le porto da mia socia. Le porto da mia mamma, le faccio dormire là e me ne scendo davanti alla fabbrica a protestare. Tu non vai da nessuna parte, hai capito? Non vai da nessuna parte, ma insomma, ma vuoi capire che dobbiamo bloccare dobbiamo bloccare la produzione dei motori della Fiat Punto e della Lancia Y, perché se noi blocchiamo la produzione dei motori che facciamo a Melfi, si bloccheranno tutte le fabbriche Fiat d'Italia, e che vinceremo la nostra battaglia. Noi dobbiamo guadagnare il 10% in meno rispetto a tutti gli altri operai Fiat d'Italia. No, Antò, perché dobbiamo fare la doppia battuta che esiste solo qua? Salario, diritti, democrazia! Fa la frida, non fa la comunista. Hai capito che sei una mamma o no? Stai dormendo la creatura, avevo fatto lì. Ancora, io scendo avanti alla fabbrica, non ce la faccio più. Ma ti ricordi il ginecologo, che ci diceva il ginecologo? Il ginecologo, quando io ero incinta, per tutte e due le bambine, con la doppia battuta, stavo per perdere le bambine. Ti ricordi o no? Il ginecologo, che cosa ci disse? Dimmelo, che ci disse? Ho capito che ci disse, ma che cazzo dobbiamo fare? Dobbiamo scendere avanti alla fabbrica, dobbiamo andare a bloccare il passaggio nella fabbrica, dobbiamo fare un grande sciopero. Da oggi, 19 aprile, deve cambiare la vita. Non vai da nessuna parte, non gridare, non fa la comunista, gridare, la bambina dorme. Antò, se io mi metto così, guarda bene, ti dice ancora qualcosa questo? Bravo, hai fatto svegliare la creatura, bravo, che bella mamma che sei, guarda, hai fatto svegliare la creatura piccola, dammi la bambina che me ne vado. Vuoi la bambina, te ne vuoi andare? Ti do la bambina, tira già qui, dammela a me, che me la porto a casa di mia mamma, ci porto pure a Caterina e me ne vado a dormire col sacco a pelo davanti alla fabbrica per i miei diritti. Te ne mandare, guarda che se esci da questa casa non entrerai mai più. Me ne vado, Antonio, me ne vado per sempre. Te ne mandare, forza, ti apro pure la porta, ricordati che non entri mai più. Me ne vado per sempre, Antonio. Da oggi, 19 aprile 2004, gli operai italiani cambiano vita, Antonio. Ti dico una parola sola, Antonio, guardatelo per tutta la vita sta parola, Antonio, vaffanculo. Questa parola nella casa un pago per un quarto d'ora, colleghi, vaffanculo, andare al sole. Quando vide l'avvocato ci disse: avvocato, vi dico una parola sola, ricordatela per tutta la vita. Avvocato. Saltò ossequioso, era il 19 aprile del 2004, era al balcone che si pigliava la prima aria primaverile, si respirava una giornata di sole, il sole dell'avvenire. Mio nonno mi salutò affettuoso, ma io mi sentivo una pecora. Salì sopra e disse a mio padre che con mia moglie ce l'avamo lasciata e che aveva portato le due bambine a casa della mamma, di mia suocera. Io ero rimasto solo e avevo sfrattato tutta la casa e me ne ritornavo a vivere un'altra volta a casa di mia mamma e mio padre come a prima. E chiesi a papà se mandava a fare lo sfratto. Dico: papà, ma vabbè, pigliare quelle quattro cose e me le porti qua. Mio padre disse: va avanti anche vicino alla fabbrica. Scendi alla fabbrica, andò. Che è il trasloco, devo farsi. Scina alla fabbrica, va fatica, andò. E contro la via. Che mi portava a me dalle alture, gli operai all'epoca tenevamo la tuta amaranto rossa come il sole, e gli operai scendevamo giù dalle montagne nella piana di Verdi, la piana di Federico II. Quella piana era piena di contadini che zappavano la terra, e ora scendendo sul pullman pensava ad Angela, a mio nonno, pensava ad Angela. Guardavo la piana di Melfi piena di grano e pensavo ad Angela quando per la prima volta facemmo l'amore nella piana di Melfi. Sì, rubai la 128 blu di mio padre, avevo 16 anni. Avevo 16 anni che non avevo manco la patente. Mi misi a fianco Angela e scendemmo nella piana di Melfi con la 128 blu fiat di papà. Arrivammo nella piana di Melfi, era pieno di grano. E accostammo la macchina a un lato, tenevamo 16 anni. E io e Angela, per la prima volta, facevamo l'amore nella piana di Melfi. La piana di Melfi mi aveva regalato la. Già al vetro, ma dormendo. davanti alla fabbrica. Vidi tanti operai stesi davanti ai cancelli della fabbrica. C'era pure Angela. Faceva l'arte marziale giapponese innanzi ai cancelli della fabbrica. Mi sei proprio bella la fabbrica con Angela che faceva l'arte marziale giapponese innanzi ai cancelli. Dopo aver maledetto 350.000 volte Taichi Ono, l'ingegnere della Toyota che aveva inventato questa stronzata della fabbrica integrata, entrai dentro la fabbrica a faticare il turno di notte ai padiglioni, 350 padiglioni, andai a lavorare poi la mattina dopo distrutto, me ne partì e tornai a Cerenza col pullman senza manco andare a vedere Angela davanti ai cancelli della fabbrica. Me ne salì al paese, era il 20 aprile e c'era mia mamma al balcone al paese, mi salutò affettuoso come sempre. Io arrivai a casa e mio nonno era là seduto, mangiammo come sempre, ma che vuoi mangiare? Io mi sentivo una pecorella. Mia moglie sola là a dormire sul saccappello, mio nonno là, durante tutta la cena del pranzo tutti tristi, tranne mio nonno, che disse: Andò, non ti preoccupare, che fra 5 giorni c'è la festa della liberazione. Era il 20 aprile. E disse a mia mamma: ma Caterina, prima si faccio una sala divisa da partigiano. Mia mamma disse: ma manca di 5 ore, già te l'ha già cacciata. Tu cacciala che la puzza di una fatalina si sperra. La caccia. E poi sentivo la mancanza delle mie figlie. Caterina e Giacomina erano a casa di mia suocera. E andai a casa di mia suocera sotto casa. Le volevo vedere. Era come se mi avessero tolto la cosa più importante che tenevo. E arrivai sotto il balcone di mia suocera, pure lei sta al secondo piano. E il balcone era aperto, era aprile, era una bella giornata. E mia suocera al balcone, proprio a fianco al balcone, teneva una gabbia. E dentro questa gabbia c'era un merlo indiano. Un merlo indiano che parlava e sapeva dire il mio nome perfetto. Andò, andò, andò. Ripeteva sempre, andò, che cumbini, andò, che cumbini. L'ha imparato mia suocera. Andò, che cumbini. Volevo vedere le bambine, ma vedendo il merlo, il balcone aperto, pensai se mette a dire andò con i bambini, ci vedete tutti, allora me ne andavo. Poi si fece il 22 aprile, avevo una voglia di vedere Angela, ma una voglia ma forte di vedere mia moglie, e scesi in fabbrica, presi il pullman e vi andava piano piano dalle montagne, scesi nella piana di Melfi e arrivai subito davanti alla fabbrica. Cercai Angela innanzi ai cancelli della fabbrica, c'erano tanti operai stesi a terra, erano più di 1000 stavolta gli operai stesi a terra, e sul pullman eravamo 3-4 operai che volevamo entrare in fabbrica, e davanti alla fabbrica vidi Angela. Quanto era bella, era stanca, i capelli sporchi. Piano piano il pullman si avvicinò a lei e io la vidi dall'alto verso il basso, lei mi vide dal basso verso l'alto. Bella che pareva una principessa. Aveva dormito tutte quelle notti nel saccappello davanti alla fabbrica. Aveva una voglia di scendere dal pullman, di abbracciarla forte, ma niente, non voglio scendere. Entrai un'altra volta in fabbrica per prendere i padiglioni, ma quella mattina padiglioni non ce n'erano, non si lavorava più. La fabbrica era bloccata, stavano vincendo gli operai. E addirittura si era bloccata una linea a Torino-Mirafiori, che non arrivavano più i pezzi di basamento del motore. E me ne tornai al paese senza andare manco da Angela, arrivare al paese, e la fabbrica era chiusa, c'era mio nonno come sempre al balcone che mi guardava, e quel pomeriggio mi mise a dormire e l'indomani mattina andai a prendere le mie figlie. Il merlo non mi vide, presi le bambine e le... Caterina, la figlia grande, 8 anni, e la portai a scuola elementare. Era la prima volta che portavo mia figlia alla scuola. Arrivando davanti alla scuola mi fece sedere proprio sul portone, sulla pietra davanti alla scuola, mi disse: papà, quando la facciamo la capanna nel bosco? La facciamo, Caterina. Però ci deve essere pure mamma a fare la capanna. Certo che la facciamo. Mi sentì sentivo niente. Ma veramente niente. Avevo perso tutto. Avevo perso il lavoro. Stavo perdendo le figlie. Avevo perso mia moglie, che se ne stava davanti al cancello della fabbrica. Mi sentivo veramente di niente. E non avevo neppure il coraggio di andare davanti alla fabbrica. Mi sentivo niente, mi sentivo come se mi avessero rubato tutto. Ma la cosa più brutta che sentivo che qualche padrone, a noi operai di tutta Italia, ci aveva messo la mano nel petto e ci aveva tirato fuori il cuore. E che noi ci eravamo venduti il cuore, ci eravamo venduti l'anima. E questo mi faceva soffrire, che ci eravamo venduto l'anima. E poi si fece il 23 aprile e non andai alla fabbrica, era chiusa la fabbrica. Che ci andavo a fare? Ci mise a girare per il paese come un pazzo. E poi arrivò ora di mangiare e me ne salì su. Salì a casa a mio nonno al balcone, mi salutò, ossequioso come sempre. È arrivato nelle scale per salire e sentì qualcuno che mi chiamava: Anto, e chi è che è arrivato a casa? Salì sopra, c'era il merlo indiano. Era arrivata la suocera, aveva portato la bambina grande Caterina, 8 anni, era seduta su un tavolo e c'era il merlo indiano. Quando mia figlia Caterina mi vide, era seduta su un tavolo, sembrava un uccellino che sta nel nido e si lancia fedele e che capisce che il suo volo riesce, però non ce la fa e c'è il padre che la acchiappa. E mia figlia mi abbracciava forte forte e mi diceva: papà, guarda, facciamo la capanna nel posto. La facciamo, capito? Tranquilla, la facciamo, capito? Mi abbracciava stretto stretto. Quando la facciamo, papà, la capanna la facciamo, capito? Ti giuro che la facciamo. E il merlo indiano dietro: andò, che combini? Andò, che combini? Che combini? Fatti i cazzi tuoi, hai capito? Non lo sopportavo proprio questo merlo. Io lo odiavo, ripeterà tutte le parole di mia suocera. Pensate che lo odiavo così tanto, questo cazzo di merlo, che una mattina, che mia suocera non era a casa, aprì la gaggiola, presi la vaschetta dell'acqua e dentro la vaschetta dell'acqua ci misi 15 gocce di Lexotan. Il merlo piano piano sui bastoncini precipitò al suolo morto. Andò in coma, ma dopo 2 notti si risvegliò e raccontò tutto a mia suocera. Mi tolse il saluto per 15 mesi. Era diventato il miglior amico di mia figlia, non potevo dire mai mezza parola, era per me come un capo. Allora, prendemmo il merlo, mia mamma prese 100 euro dalla pensione e mi disse: te, disse a mia suocera, piglia sti 100 euro, era il 2004, c'era l'euro, tieni sti 100 euro per la bambina, fa mangiare le bambine. Eppure mio nonno prese 100 euro dal cappottone della resistenza e gli diede a mia suocera: ci fa mangiare qualcosa alle bambine. E se non ci pensa la Fiat a far mangiare i bambini, ci pensa la resistenza. Così prendemmo il merlindiano, presi mia figlia e l'accompagnai a casa, la mise a chiodo e poi andai a vedere la figlia piccola Giacomina, quanto era bella, dormiva nella stanza che non la riconoscevo più per com'era cambiata. Sembrava un'altra figlia, che un padre non può vedere le figlie crescere. La presi in braccio, ma poi scappai subito quando mi stufi sotto al balcone e darmi il piano. A tocchi, poi si fece il 24 aprile, era la vigilia della liberazione d'Italia. Mio nonno era tutto felice, che stava per arrivare il momento della divisa. E io ero il 24 aprile, mandai a comprare tutti i giornali nazionali per vedere se sui giornali almeno vedevo Angela, che era davanti ai cancelli in un sacco a pelo a dormire da quasi 6 giorni. Comprai i giornali, non c'era la fotografia. biografia di Angela, però tutti i giornali d'Italia, il Corriere della Sera, la Repubblica, tutti titolavano sciopero dei, gli operai Fiat di Melfi stanno bloccando l'Italia, e addirittura il TG1 fece vedere le immagini degli operai stesi a terra, si vide pure Angela al TG1, quanto era bella, che pareva una principessa, veramente aveva la faccia stanca, i capelli sporchi, ma sembrava una principessa, quanto era bella. Poi si fece il 24 aprile la sera e c'era una tristezza a casa mia, c'era mio nonno che si era fatto cacciare la divisa da partigiano, teneva la divisa da partigiano, teneva il bastone della resistenza, teneva il bastone che aveva fatto, aveva la divisa da partigiano, il cappottone della resistenza, era il 24 aprile a sera e lui era tutto, e dice: Anto, non ti preoccupare, state tranquillo che tutte le cose si aggiustano, che stanotte arriva la resistenza, la liberazione d'Italia. Io non sapevo che cos'era questa liberazione d'Italia, non avevo mai detto niente, poi ero stato io che non avevo capito. Il fatto sta che ci chiesi a mio nonno, ma che è questa liberazione d'Italia? Mio nonno disse: la liberazione d'Italia, come da già fa capire, la liberazione d'Italia, quando tanti partigiani come a me sta divisa, fascisti e nazisti che ci facevano schiavi e non ci davano da mangiare e ci liberavano, ecco che è la liberazione di noi, che ne liberemmo la fascista e nazista. Quando la partita andò per le sei strade, stavamo in coppa alle montagne e scendiamo così in città, in coppa i paesi, quando la partigiani sparati contro i muri, pure a me mi sparerebbe. Ah, tengo ancora la macchia di sangue un po' poco a poco, vuoi a chi la va? E io andavo davanti e gli altri partigiani ci vivevano un po' più muro, io non scrivevo, che non sacci, scrivevano vogliamo una carta con i diritti, carte di dritto e la scrivevo la carta che c'è ma fascista e nazista che scrivevo la carta, come che la scrivevo? Io non sapevo che carta era. Ci disse a mio nonno, ma che è questa carta che avete scritto? Costituzione. Ce n'è sempre una costituzione da sacchetto d'un capo, leggela tu, leggi, non perditi. Io presi la costituzione della sacca del capo di mio nonno, cominciai a leggere. Arrivai proprio ai primi articoli, lessi: l'Italia è una repubblica fondata quelli. Quando arrivò quella parola, quella lavoro, quella parola brutta, lavoro, brutta ma bella. Chi ci mise 10 anni a leggere quella parola lavoro? Guardavo mio nonno con la divisa della resistenza. E mio nonno ripeteva lavoro, cose brutte ci succedevano per questa parola lavoro, che tutta l'Italia era paralizzata per questa parola lavoro. E mio nonno cominciò a cantare la canzone della resistenza. Lavoratori, a voi è diretto il canto di questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un ballo d'un giovinforte che per amor di voi Caserio arde nella pupilla delle vendette umane la spina, e alla plebe che lavora e geme donasti ogni tuo affetto, ogni tuo splendore della vita, e non vedesti che notte infinita, la notte dei dolori e della fame, che incombe sull'immenso mandarmi, e ti devasti di dolore, io ti strazi al tierbe e ti aventasti sì buono e mite a scuoter l'alme schiave e avvinite. Tremarono i potenti all'atto fiero e nuove insidie tesero al pensiero, ma il popolo cui l'anima donasti non ti comprese pur del 25 aprile del 2004 la televisione italiana a ora di pranzo fece vedere le immagini del presidente del consiglio del tempo che era Silvio Berlusconi, che proprio la mattina del 25 aprile del 2004 era andato a festeggiare la resistenza italiana nella sua villa in Sardegna. C'era con lui Apicella, Apicella, quello delle canzoni, dice che avevano cantato tutte le canzoni in Sardegna che avevano scritto assieme, A gelosia, colpa mia. Mio nonno vide Berlusconi alla televisione e disse, Trino mi ha caduto un destro, disse vedi dire un po' qui. L'Italia si canta bella ciao, vedo un capellone che si canta. Poi il TG1 fece vedere il sottosegretario al Ministero del Lavoro Sacconi, che proprio quella mattina disse gli operai della Fiat di Melfi stanno bloccando l'economia italiana. dal 19 aprile, non è più possibile, dobbiamo intervenire con le buone, convincerli. Mio nonno disse col cappottone della resistenza: la polizia, ti faccio vedere che scende la polizia da Roma e da Milano, la polizia, pensai a Angela sola sola innanzi ai cancelli della fabbrica, la polizia. Mio padre fece un passo indietro, prese i modellini delle 600 e disse: la polizia. Noi alla Fiat ci abbiamo regalato l'anima e ora arriva la polizia. La Fiat ha fatto il monopolio in Italia, si è accattato tutto, esiste solo la Fiat. In tutte le altre paesi d'Europa esistono 7-8 case automobilistiche, in Italia esiste solo la Fiat. Si è comprato tutto, la Lancia, l'Auto Bianchi, l'Alfa Romeo, la Maserati, tutto, che esiste solo la Fiat. E dopo che ha fatto il monopolio ha cominciato a chiedere soldi a fondo perduto allo Stato, e lo Stato ci ha dato i soldi per fare le macchine, per gli operai, per la loro vita, e loro fanno il turismo. La carta stampata, ricevo il ritran dalla faccia a 6 macchine. Mio nonno disse: lancio l'Antonio le macchine, che se vanno alla fabbrica ce la dirai. Poi disse: Anto, se scendo in alza alla fabbrica, mettiti il cappottone della resistenza. E io quella notte mi mise a dormire. Ma che vuoi dormire? Non si poteva dormire, non riusciva a dormire. Mia mamma mi aveva messo a dormire in una stanza piccola piccola, piena di cartoni dello sfratto. Erano le 3 del mattino, non riuscivo a dormire, a pensare a Angela davanti ai cancelli della fabbrica. E allora che potevo fare? Presi un cartone, lo aprì e trovai il puzzle di pane. Poi, ricordando le canzoni che mio nonno cantava della resistenza, raccolsi tutto il coraggio che tenevo, tutto, come se quelle canzoni fossero entrate uno per uno dentro di me. E allora andai a prendere il lenzuolo della capanna nel bosco, e poi presi le macchinucce di papà e andai nella stanza di mio nonno a prendere il cappottone della resistenza. Feci piano piano, mio nonno dormiva, aprì l'armadio, mio nonno era sordo, tirai fuori il cappotto e mio nonno: va già in mezzo alla fabbrica e operai là lì. Presi il cappottone della resistenza, mi misi il cappottone della resistenza e andai davanti alla fabbrica. Arrivai il 26 aprile all'alba, che davanti ai cancelli della fabbrica, mamma, quante persone che c'erano più di 1000 operai con le tute amaranto, che all'epoca tenevamo le tute amaranto nei cancelli della fabbrica stesi a terra. E io cominciai a camminare per vedere se in mezzo a quei operai stesi a terra c'era pure Angela, e ricercavo piano piano, mi sdraiavo e cominciavo a camminare in mezzo a loro, e stavo piovigginando, stava facendo giorno e gli operai erano stesi a terra e si coprivano coi celofan, perché la pioggia li bagnava, si coprivano, io scomodavo le facce per vedere se c'era Angela, e cominciai a dire: Angela, Angela, addusi Angela, sono sceso pure io, Angela, Angela. Ma c'erano più di 1000-1200 operai stesi a terra, e proprio in quel momento che cominciai a camminare, che mi accorgevo che tutti quegli operai erano tutti bagnati, come se fossero tanti pesci, tanti alici nelle cassette, e tu ci metti i piedi dentro, e li sentivo tutti bagnati. Proprio in quel momento arrivò un pullman da dietro, un pullman, c'erano 3 capiute sopra, e il pullman doveva entrare in fabbrica ma non poteva passare perché i cancelli erano occupati dagli operai stesi a terra. E allora il pullman cominciò a suonare, po, il pullman suonava, po, ma non poteva passare, il pullman suonava, po, e un operaio prese il megafono e gridò: scendete a piedi, vi facciamo passare a piedi, non potete passare col pullman. Ma il pullman niente, lampeggiava, stava facendo giorno, poi vicinava, c'era la nebbia, suonava e suonava forte, e un poliziotto prese il megafono dal fondo, dalla vicina ai cancelli: quanta polizia era accesa da Roma, c'erano più di 1000 poliziotti davanti ai cancelli della fabbrica. Un poliziotto gridò col megafono: operai, avete pochi secondi per alzarvi, altrimenti tagliamo. E gli operai cominciarono a gridare sotto il cielo: fanno lavoro, lavoro, dignità, lavoro, Sabatini, Sabatini, di Vittorio, erano due grandi sindacalisti della CGIL, e io pure mi trovai a gridare di Vittorio. sabattini, di Vittorio, Angela, Sant'Antonio, tutti i guardaparti poliziotti che hanno arrivato le manganellate, che tutti questi poliziotti sembrano tanti cavalli che non ce la fanno più a stare fermi e vogliono partire a un galoppo. Angela, tutti che camminavo avanti e cercavo Angela, Angela, sono sceso dal paese a tutti i guardaparti polizia che c'è, Angela. In quel momento un poliziotto mi do, stiamo per caricare, al salario carichiamo un operaio di prese di fumo. Era caduto sul petto di un'operaia, salvavamo, era caduto sul petto di Angela, ci abbracciamo come se fossimo nel cinema, era caduto sul petto di una moglie, ci abbracciamo, se ci avevamo due coglioni, stavano per intervenire i poliziotti e noi ci abbracciamo, e Angela dice forza, stavano per intervenire i poliziotti, facciamo la capanna nel cuore, e io con il suo e e la polizia cominciò a picchiare, la polizia picchiava, io mi sarevo Angela, e pure io e mia moglie, la testa spaccata. Il vice richieste degli operai furono sempre le stesse. Per 21 giorni, 21 giorni di lotta davanti ai cancelli della fabbrica, bloccata l'economia italiana. Dopo 21 giorni di lotta, la Fiat accettò le richieste degli operai, tutte le richieste. Angela mi disse: hai visto? Abbiamo vinto. Sorrise, scherzava. Però una cosa è vera: se in Italia dobbiamo cominciare a fare qualche cosa poco poco di serio, ogni mattina che ci svegliamo dobbiamo dire davanti allo specchio: amma fa come hanno fatto a me.